Letture di Radio 24. Il 5 aprile scorso il Senato francese ha votato per la desecretazione di 4 verbali della Camera dei Deputati francese del 1870 e 1871. I verbali a cavallo tra la disfatta di Napoleone e l'inizio della Comune di Parigi sono stati ritrovati per caso da un funzionario nel fondo di un archivio. I verbali di 4 sedute a porte chiuse dell'Assemblée nationale, la Camera dei Deputati francese nel 1870-71, fra la disfatta di Napoleone III e l'inizio della Comune di Parigi, ritrovati per caso in fondo a un armadio. Il voto dei deputati, quelli attuali, per renderli pubblici, perché solo l'Assemblée può desegretare ciò che l'Assemblée ha segretato. Non succedeva dal 68, quando il Senato autorizzò la pubblicazione di alcune sue sedute segrete e tumultuose della Prima Guerra Mondiale. La storia è incredibile, ma vera. Tutto inizia dalla curiosità di un impiegato dell'archivio che nel 2009, sfogliando un inventario ingiallito, si chiede di cosa parlino e dove siano 4 verbali di altrettanti comité segret. Si fanno ricerche e da una vecchia cassaforte nelle cantine del Palais Bourbon spuntano i resoconti dei dibattiti, avvenuti senza il pubblico a causa della loro delicatezza. 3 del 13, 25 e 26 agosto 1870 si erano svolti in quello che era ancora il Corps Legislatif del Secondo Impero. La guerra contro la Prussia, imprudentemente dichiarata da Napoleone il Piccolo su istigazione della sua terribile moglie, l'imperatrice Eugenia, sta andando malissimo e i deputati della gauche, in attesa di rovesciarlo, si scatenano contro l'impero. I futuri tenori della Terza Repubblica ci sono già tutti, eloquentissimi e fluviali. Léon Gambetta, Jules Ferry, Adolphe Crémieux. Il quarto dibattito è meglio ancora. È il 22 marzo del 71. Nel frattempo l'impero è caduto, la guerra è stata persa, l'Alsazia e la Lorena pure, le elezioni vinte dalla destra. Ma Parigi non ci sta. Sull'Hôtel de Ville sventola la bandiera rossa e alla Comune mancano 4 giorni. Un deputato della sinistra minaccia il governo conservatore di Thiers. Sarete responsabili di quel che succederà. A 29 anni si chiama Georges Clemenceau e vivrà abbastanza per vincere da primo ministro la guerra del 14-18, riconquistare le 2 province perdute e diventare il padre della vittoria. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Via il segreto dai documenti della Comune, dalla Stampa di mercoledì 6 aprile. Letture di Radio 24. Qualche anno fa, il fenomeno dei blog e dei loro autori era un fenomeno di serie B anche negli Stati Uniti. Oggi, invece, almeno negli Stati Uniti, sono i trionfatori dell'informazione che influenzano i giornali e l'agenda politica della Casa Bianca. Ti accorgi che qualcosa sta cambiando quando nella conferenza stampa Barack Obama, di fronte a una selva di mani alzate, sceglie di dare la parola al corrispondente di Politico.com, un blog. È lo stesso corrispondente a cui il protocollo della Casa Bianca assegna uno dei rari posti in prima classe sul volo charter, ribattezzato Air Force Two, che segue il presidente in trasferta all'estero. Quell'onore, fino a poco tempo fa, era riservato agli anchor di CNN e alle grandi firme del New York Times, del Washington Post. Ma questi piccoli segnali di rispetto non fanno che ratificare un dato di fatto. L'intero establishment di Washington si sveglia al mattino seguendo le regole di un rituale nuovo. Mentre sulla radio sveglia gracchia il notiziario di NPR, mentre lo schermo TV è acceso sulle cable news di Fox o MSNBC, gli occhi assonnati si incollano prima di tutto all'iPhone o all'iPad per scorrere la prima email mattutina di Mike Allen. È il condensato delle notizie e qualche volta degli scoop esclusivi che segneranno l'agenda politica del giorno. Questa è l'era in cui la madre dei superblog, Arianna Huffington, ha varato una fusione alla pari e oggi parte alla conquista dell'Europa, aprendo a Londra la sua prima edizione oltreoceano. Eppure, quando nacque The Huffington Post, era un paria, un outsider. Occupava una nicchia marginale sul mercato dell'informazione. Ora, il New York Times celebra il trionfo degli ex outsider, diventati delle autentiche potenze. I nuovi VIP del giornalismo americano si chiamano Brian Beutler, 28 anni, reporter per il sito Talking Points Memo, Dave Vigel, 29 anni, inviato politico del blog Slate. Matt Iglesias, 29 anni, che creò il suo blog quando era ancora studente ad Harvard e oggi è una star dell'informazione online. Poi ci sono anche i meno giovani, che grazie al blog hanno conosciuto una seconda vita. Il caso più celebre è quello di Andrew Sullivan, ex direttore del magazine elitario The New Republic, che si è reinventato con il suo blog The Daily Dish, il piatto quotidiano. Oltre 300.000 lettori quotidiani. La potenza dei blogger non ha un colore politico uniforme. Investe tutto lo spettro dei partiti e delle ideologie. Sono i ventenni la vera forza d'urto di questo fenomeno. Sbarcati a Washington 4 anni fa come dei bohemien, squattrinati e privi di accesso alle fonti politiche importanti, da allora sono stati proiettati ai vertici dell'establishment mediatico. Qual è l'impatto reale di questa generazione di ventenni sull'informazione politica americana? Nessuno mette in discussione il loro talento, né il fatto che abbiano riempito uno spazio di mercato. A cominciare dai lettori della loro stessa generazione, che consumano notizie sotto la forma abbreviata, sincopata, dei messaggi su Twitter e su Facebook. I media tradizionali ne hanno preso atto, cooptando come nuove firme alcuni di questi blogger. Il Washington Post ha ospitato sul suo sito per 3 mesi i commenti di Dave Weigel, dopodiché il blogger è stato ingaggiato come commentatore della cable TV di sinistra MSNBC, la rivale di Fox. Ezra Klein, che da studente alla University of California, Los Angeles, era stato bocciato come aspirante redattore del giornale universitario, dopo il successo del suo blog è stato assunto come opinionista da Washington Post e Newsweek. Klein riconosce che l'ingresso in un tempio del giornalismo, come il Washington Post, ha trasformato il suo modo di lavorare. La verifica delle notizie, il controllo delle fonti, tutto ciò avviene secondo un metodo formalizzato, con delle regole da seguire, un atteggiamento più cauto e responsabile. Questo non gli ha impedito uno scivolone nelle vecchie abitudini del blogger d'assalto, che gli è costato caro. Attaccando il senatore Joe Lieberman per il suo voto contro la riforma sanitaria di Obama, Klein lo accusò di preferire la morte di centinaia di migliaia di pazienti, pur di regolare qualche vecchio rancore politico. Una frase imperdonabile secondo un blogger avversario, il conservatore Tucker Carlson, del Daily Caller. Sommerso dalle polemiche, Klein ha finito per dimettersi dal Washington Post. L'episodio sembra dare ragione a chi considera questo neo-establishment dei blogger VIP come un decadimento del giornalismo americano. Superficiali, faziosi, virulenti fino all'insulto. In America, grazie alla libertà d'espressione garantita nel primo emendamento, le querele sono praticamente impossibili. Lo storico dell'informazione Douglas Brinkley sul New York Times stigmatizza l'ascesa troppo rapida di questi ventenni che hanno bruciato le tappe, arrivando nel cuore della politica a Washington, senza essersi fatti le ossa in un mondo più vasto. Ora dominano dei reporter che sono bravi nel marketing di se stessi, ma superficiali. Sullivan, al contrario, esalta il fenomeno dei blogger ventenni che fanno opinione nella capitale, perché ha spalancato la professione del giornalista ai giovani, imponendo nuovi linguaggi. Il direttore del New York Times, Bill Keller, scende in campo personalmente per descrivere il ruolo dell'ammiraglia di tutti i quotidiani, in quella che lui definisce l'era dell'informazione guerriglia, con un'allusione anche al fenomeno di WikiLeaks. Dai blogger militanti a Julian Assange, tutti in qualche modo mettono in discussione la centralità della stampa. Crediamo ancora, scrive, nella verifica delle notizie. Diamo un valore superiore al rigore, alla precisione, rispetto alla sensazione. Vogliamo che i nostri articoli possano reggere ad ogni esame. Alcuni dei nostri critici sostengono che l'obiettività è irraggiungibile, oppure noiosa. Quindi perché inseguirla? Ma Keller spiega anche che la ricerca dell'imparzialità non significa essere neutrali, né dare lo stesso peso ad ogni punto di vista, anche i più strampalati. Come chi continua a sostenere che Obama non è un cittadino americano. No, l'imparzialità è una disciplina. Nella trasformazione costante del prodotto giornale, il rapporto con la blogosfera somiglia alla distruzione creativa, Joseph Schumpeter. I blog nascono e muoiono, la selezione della specie fa emergere i soggetti più resistenti, e anche quando non finiscono per essere cooptati dai media tradizionali, L'idea di doversi misurare continuamente con un giornale di riferimento, come il New York Times, non è affatto morta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I nuovi re dei media di Federico Rampini dalla Repubblica di lunedì 28 marzo.